Focus Economia con Simone Spezia. Le 17 e 8 minuti, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. È una giornata che sui mercati era partita abbastanza bene, sembrava ci fosse la possibilità di un rimbalzo, poi sono arrivate un'altra volta le notizie dalla Grecia, il fallimento del tentativo di formazione di un governo tecnico, però chissà poi se veramente qualcuno ci ha mai creduto. E i mercati sono scesi giù pesantemente, il FTSE MIB è in calo in questo momento del 2,6%, il FTSE All Share del 2,5%, è negativa tutta Europa, ma in realtà non va così male come Milano, il CAC 40 cede lo 0,82% a Parigi, Francoforte un punto percentuale, Londra lo 0,66%. E l'America è appena positiva con il Dow Jones che guadagna lo 0,03%. Naturalmente a pesare sul mercato italiano c'è anche la raffica di downgrade arrivata da Moody's di tagli del giudizio sulle banche italiane, un taglio piuttosto pesante contro il quale l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, si è scagliata con inusitata durezza, e questo sarà il nostro primo tema di approfondimento. Tanto che, per darvi un'idea, il Banco Popolare cede il 7,18%, il Monte dei Paschi il 7,24%, la Popolare Emilia Romagna il 7,05%, UbiBanca il 6%, Unicredit il 5,24%, Mediolanum il 5,12%, la Popolare di Milano il 4,86%, Intesa San Paolo il 4,31%. Questo per dare il quadro della situazione. Parleremo dunque di questi downgrade, parleremo ovviamente della giornata dei mercati di oggi, parleremo di Grecia e anche della situazione europea in genere, perché oggi, primo atto dopo il giuramento, dopo il passaggio di consegne tra Sarkozy e Hollande, Hollande vola a Berlino e va ad incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel, quindi ci collegheremo con Berlino, con Parigi e con Atene per fare il punto della situazione europea. E poi ci occuperemo naturalmente anche di Italia, seppure questi temi riguardano anche il nostro paese, però ci occuperemo più specificatamente dell'industria italiana, in particolare dei costruttori che preannunciano azioni legali contro lo Stato per il ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Tutto questo nella seconda parte del programma. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve. C'è l'oro in calo a 1555,85 dollari l'oncia, il prezzo più basso dalla fine dell'anno scorso, mentre il petrolio aperto in lieve rialzo a New York a 94,85 dollari al barile. È interessante, come sapete, poi nelle settimane scorse abbiamo ospitato gli esperti di Nomisma Energia, è interessante la conclusione sul rapporto che tanto spesso viene messo sotto accusa tra il prezzo del greggio e l'andamento alla pompa della benzina, dei carburanti. Ebbene, dice Nomisma che non c'è nessuna doppia velocità nell'adeguamento dei prezzi della benzina, non esiste una percezione dei consumatori, e lo studio di Nomisma Energia era stato commissionato dall'Unione Petrolifera, ma insieme ad Adusbef e Federconsumatori. E anzi, viene dimostrata l'alta correlazione tra le quotazioni internazionali del greggio e i prezzi alla pompa. La società di ricerca intanto prevede un'ulteriore discesa dei listini, già in calo verso 1,80-1,70 euro al litro. Dalla finanza, tanto si è parlato invece della vicenda JP Morgan, del 2 miliardi di dollari di perdite registrate per errori in operazioni di trading. Non sarebbe dovuto accadere, dice l'amministratore delegato di JP Morgan, Jamie Dimon. Nessun cliente ne ha risentito, rassicura, tutte le azioni correttive sono state prese, erano necessarie. E aggiunge, voglio ammettere gli errori e imparare da questi, ci sono molte lezioni da imparare da quanto accaduto. L'istituto non è contrario alle nuove regole ed è d'accordo con il proposito che si pone la Volcker Rule. JP Morgan, aggiunge, appoggia il 70-80% della riforma di Wall Street. Parla anche il segretario al tesoro americano Timothy Geithner, che dice le perdite di JP Morgan sono un fallimento del risk management e mostrano l'importanza della riforma delle regole. Le autorità americane guarderanno attentamente e valuteranno le perdite. Ancora dati pesanti oggi sull'occupazione. Nell'area OCSE ci sono quasi 11 milioni di giovani senza lavoro, con un tasso di disoccupazione giovanile nella fascia 15-25 anni del 17,1%, lo dice la stessa OCSE. Mentre la disoccupazione giovanile in Spagna, sempre dati OCSE, in Spagna e Grecia nei primi mesi del 2012 ha raggiunto rispettivamente il 51,1% e il 51,2%. Vuol dire che metà dei giovani spagnoli e metà dei giovani greci è disoccupato. In Italia comunque non siamo messi bene, come sapete, il livello è del 35,9%. Per quanto riguarda le questioni della Grecia, poi ci entreremo più approfonditamente tra poco, naturalmente, dice Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo, lo ha detto ieri, la Grecia fuori dall'euro è solo propaganda, è un non senso, non mi piace questo modo di trattare la Grecia con continue minacce. Mentre il cancelliere e lo scacchiere britannico George Osborne accusa indirettamente la Germania e gli altri paesi, alcuni altri paesi dell'Eurozona, di fomentare un'aperta speculazione sul futuro di altri paesi. Netta la risposta poco fa di uno dei cosiddetti falchi, Wolfgang Schäuble, ministro delle finanze tedesco. Il voto anticipato in Grecia non cambia la situazione e Atene deve attuare il suo programma per rimanere nell'euro. Il paese ellenico, dice Schäuble, deve eleggere un governo che rispetti i termini di salvataggio internazionale per rimanere nell'euro e che è stato concordato. Nessun candidato responsabile può nascondere questo all'elettorato. Potrà, insomma, anche aver ragione nel merito. Detto ciò, il popolo ellenico voterà un po' chi gli pare. Dice invece il ministro uscente dell'economia francese che un'eventuale uscita della Grecia dall'euro non sarebbe un problema a livello finanziario, ma rappresenterebbe una minaccia di contagio eccezionale per gli altri paesi dell'Unione. Creerebbe dubbio e sfiducia nello spirito degli investitori. Bisogna preservare l'integrazione della Grecia nella zona dell'euro. Nel frattempo lo spread tra BTP e Bund è tornato ad allargarsi. La differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, vicino ai 440 punti, ha pesato appunto la situazione greca. Intanto l'Italia fa i conti con i suoi problemi, quelli del prodotto interno lordo innanzitutto, della crescita. Nel primo trimestre, secondo la stima preliminare dell'Istat, si conferma la recessione. Il calo nel primo trimestre dell'anno è stato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e dell'1,3% rispetto al primo trimestre del 2011. Mai così male dall'inizio del 2009. Per il 2012 la crescita acquisita, crescita si fa per dire, è un calo del PIL dell'1,3%, il governo stima un calo dell'1,2% relativo a tutto il 2012. Dice l'Istat che è aumentato il valore aggiunto dell'agricoltura ed è diminuito il valore aggiunto dell'industria e dei servizi. Adesso, prima di affrontare il primo tema, quello del rating, sentiamo le notizie di cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Iniziamo dalla regione Sicilia, tanto se n'è parlato, dei soldi stanziati, 150.000 euro per un consulente esterno per salvare la zelkova. Cos'è la zelkova? La rara pianta che cresce solo in Turchia e nella provincia di Siracusa a rischio di estinzione. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E concludiamo questa vicenda. Ebbene, la regione ha deciso di fare un passo indietro, niente più 150.000 euro per salvare la zelkova, ma se ne occuperà un dirigente della regione siciliana, coordinerà la parte scientifica del progetto finanziato dall'Unione Europea a costo zero. Altra notizia invece, in questo caso da Londra, decine di migliaia di funzionari del governo britannico stanziati negli uffici che si trovano negli uffici a due passi dal Parlamento lavoreranno da casa durante le Olimpiadi. L'annuncio ha lasciato increduli ministri, parlamentari e associazioni commerciali intenti a lanciare il messaggio che in un periodo di crisi economica è vitale aumentare la produttività. Gli uffici del governo invece hanno deciso di ridurre del 50% i loro viaggi verso il posto di lavoro per combattere il traffico durante i giochi, dando ai funzionari diverse possibilità, tra cui appunto lavorare in uffici più vicini a casa, andare a lavoro a piedi o lavorare appunto da casa. Iniziamo dal primo tema di giornata, ossia il rating. (349) 238 6666 per i vostri sms, ma prima di tutto una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie e che riguarda la cessione delle azioni della SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, lo ricorderete, a favore della società F2I. Ebbene, i militari della Guardia di Finanza stanno acquisendo negli uffici del Comune di Milano documenti su questa vicenda, lo riferisce l'ANSA, citando fonti qualificate. E dunque veniamo al tema del rating. L'agenzia Moody's ha tagliato il giudizio su 26 banche italiane, le prospettive sono negative. Ci sono praticamente tutte, Intesa San Paolo, Unicredit, il Monte dei Paschi, BPM, UBI, Credito Valtellinese. Il rating del Monte dei Paschi è stato ridotto di due livelli ed è ora solo un gradino sopra il livello spazzatura. Intanto la situazione delle banche peggiore in borsa, la Popolare Emilia Romagna cede il 9% e qualcosa, il Monte dei Paschi il 7,3%, il Banco Popolare il 6,6%. Durissimo il giudizio dell'ABI, il responsabile giudizio di Moody's sulle banche italiane, un'aggressione all'Italia, alle sue imprese, alle sue famiglie, ai suoi cittadini. Ancora una volta le agenzie di rating si confermano come un elemento di destabilizzazione dei mercati con giudizi parziali e contraddittori. Quando vi dicevo in apertura di inusitata durezza mi riferivo esattamente a questo. Professor Donato Masciandaro, docente di economia della regolamentazione finanziaria all'Università Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora professore, ne abbiamo parlato tante volte, il suo giudizio sulle agenzie di rating è abbastanza duro, soprattutto per come si è evoluto il mercato. Le chiederei, dato che il tema mi sembra, dopo il comunicato dell'ABI, mi sembra che sia diventato questo chiaramente e non più il downgrade in se stesso, è questo il tema che voglio toccare con lei. Lei dice che ci sono sostanzialmente tre elementi per i quali queste agenzie di rating possono essere considerate ormai poco affidabili, se così possiamo dire. Ce li vuole riassumere in breve? Certo, faccio una premessa che il mio giudizio duro non è tanto sulle agenzie di rating di per sé, ma che cosa sono diventate le agenzie di rating a causa dell'uso strumentale che la regolamentazione e i vigilanti ne hanno fatte di queste agenzie. Ma rispondo alla sua domanda, le agenzie di rating sono società private che devono il loro successo in origine essenzialmente a tre fattori. Davano informazioni migliori al mercato perché in primo luogo erano in contatto diretto con gli emittenti, quindi avevano insider information; in secondo luogo avevano migliori capacità del mercato in termini di capitale umano e anche di analisi dei bilanci, e in terzo luogo erano ritenuti dei soggetti indipendenti, cioè soggetti terzi, sia rispetto agli emittenti sia rispetto ai finanziatori. Ora, quello che l'analisi economica ci ha raccontato in questi decenni è che questi tre fattori di successo sono andati molto si sono ridotti, soprattutto se pensiamo che le agenzie di rating danno dei giudizi anche senza essere in contatto con le emittenti, quindi non hanno informazioni privilegiate, non sono più in possesso di tecnologie o di capitale umano particolarmente diverso dagli altri. E infine, quanto più sono pagati dagli emittenti, tanto più possiamo pensare che siano davvero indipendenti. Quindi il combinato disposto di queste tre critiche ha di fatto abbassato molto la credibilità di questi soggetti. Però la volatilità sui mercati c'è lo stesso, e qui viene la mia critica maggiore: la colpa non è delle agenzie di rating, la colpa è di tutti coloro che hanno messo il rating all'interno della regolamentazione, per cui automaticamente il rating ha un valore, a prescindere dal suo reale innovativo contenuto informativo al mercato. Questo è chiarissimo, professore, mi sembra anche un ragionamento interessante, perché poi alla fine appunto il rating viene comunemente utilizzato ed è lo stesso rating che viene emesso dalle agenzie. Però le vorrei chiedere questo: non è che semplicemente in questo momento loro stanno giocando in difesa? Intendo questo, che noi ci siamo lamentati tantissimo del fatto che siano arrivati in ritardo su una serie di casi importanti per la finanza internazionale e italiana, ad esempio su Parmalat, giudizi lusinghieri quando insomma l'azienda si avvicinava ad essere decotta. Si è detto malissimo per esempio sul caso di Lehman Brothers, tanto per fare due esempi insomma che più o meno hanno presenti tutti. Ma il problema non era che abbassassero il giudizio, il problema è che lo tenevano troppo alto, e forse adesso si stanno, come dire, tutelando, si stanno cautelando, stanno giocando in difesa. La sua osservazione è molto giusta. Le agenzie possono avere un atteggiamento più conservativo dopo che hanno sbagliato tante volte, ma il punto è che loro emettono, le chiamano proprio così, delle opinioni, dei giudizi. Arrivo a dire che differenza c'è tra un'agenzia e un cartomante? Nessuna, perché entrambi emettono delle valutazioni. Il problema è di chi crede ai cartomanti. Allora, il punto è che perché continuiamo a dare tanta importanza all'interno della regolamentazione al rating? Il punto è che il rating dentro la regolamentazione ha fatto comodo a tanti. Ha fatto comodo agli emittenti, che possono pagare un soggetto che dà dei giudizi. Ha fatto comodo agli investitori, che invece di fare analisi indipendente, a sforzarsi a capire la qualità di un emittente, si sdraiano sul rating. E fa tanto comodo alle autorità di vigilanza, che a loro volta dovrebbero analizzare quello che c'è nei portafogli finanziari, e invece anche loro si sdraiano sui rating. Quindi se dovessi dire da dove inizia il problema non sono le agenzie, è tutta l'architettura regolamentare sbagliata che è stata costruita su questi rating. Eh già, perché ci chiedono, tra l'altro, per esempio, è un caso che interroga anche questo aspetto, la vicenda di JP Morgan. Insomma, ne abbiamo parlato tanto, questi 2 miliardi di perdite da operazioni di trading piuttosto complesse, che qua naturalmente non stiamo a spiegare, una gestione del rischio sbagliata, come ha detto oggi lo stesso ministro al tesoro, segretario al tesoro americano Timothy Geithner, e le agenzie di rating si svegliano il giorno dopo. Fitch, il giorno dopo l'annuncio, ha tagliato, ma dopo l'annuncio appunto, ha tagliato il rating da doppia a meno ad A più. Insomma, anche questo rientra, se vogliamo, anche nel discorso che lei faceva prima, cioè ormai informazioni non ne hanno più del mercato e di chi opera sul mercato, no? Ma anche perché c'è una specie di cortocircuito. Lasciatemi fare un appello, non spariamo sulla signora Drew. La signora Drew è il capro espiatorio di questa vicenda della banca d'affari, e è colei che doveva cogliere dei rischi, forse se li ha assunti. Bene, ma proviamo un po' a guardare a che cosa è successo. Qui c'è un problema di un'azienda, una banca d'affari, che ha preoccupato tutto il mercato, semplicemente perché le banche d'affari ormai non sono più solo delle banche d'affari, accedono al credito di ultima istanza, sono cioè diventati dei problemi sistemici, e lo sono diventati paradossalmente di più dopo la crisi. La crisi e la regolamentazione successiva ha peggiorato il problema. Il presidente degli Stati Uniti Obama, invece di dire frasi infelici, l'Europa dovrebbe imparare da noi, peggio sto. Auguriamoci che l'Europa non impari dagli Stati Uniti, perché il disegno della regolamentazione messo in piedi è un disegno fallimentare. Mi lasci aggiungere un'ultima cosa. Speriamo che non vincano i repubblicani, perché se vincono i repubblicani andrà anche peggio. Grazie, grazie anche per questa opinione, professor Masciandaro. Vedremo che cosa succederà appunto dall'altra parte dell'oceano. Tra l'altro, lei ha sottolineato un tema che in parte è stato sottolineato ieri anche dal presidente della Consob Vegas sul tema della regolamentazione. Lo avete sentito a questi microfoni, lo abbiamo intervistato. Dice: insomma, ragazzi, ci sono casi come quelli di JP Morgan, a fronte di leggi come l'ultima appunto varata negli Stati Uniti, che costano di 1000 pagine. Probabilmente ci vuole una regolamentazione più semplice, sanzioni più severe e appunto una gestione della regolamentazione migliore. Grazie al professor Donato Masciandaro, docente di economia della regolamentazione finanziaria appunto all'Università Bocconi ed editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Buonasera professore. Noi adesso ci prendiamo una pausa, sentiamo il meteo, ci ritroviamo subito dopo per fare il punto sui mercati che la cui chiusura naturalmente è negativa, un 2,5% di calo per il FTSE MIB, un 2,40 per il FTSE All Share, e banche ovviamente tutte negative. Prima del meteo, una notizia rispetto a quel che vi dicevamo prima, ossia la Guardia di Finanza che è andata nella sede del Comune di Milano per acquisire documentazione sulla vendita delle quote SE al fondo F2I. Ebbene, Vito Gamberale, l'amministratore delegato del fondo, è indagato dalla Procura di Milano per turbativa d'asta, e indagato anche un suo collaboratore, Mauro Maia. Ci scrivete al 349-238-6666 a proposito delle agenzie di rating. Ci spiegate perché quando c'era Berlusconi si dava credibilità alle agenzie di rating, mentre ora non più, a cominciare da Casini e per arrivare a voi. Ora, se su Casini potrebbe anche aver ragione, perché dichiarazione del 19 settembre 2011: in questa caccia disperata al colpevole speriamo non siano incolpate le agenzie di rating, perché il problema non sono loro, ed era sul declassamento da parte di Standard & Poor's, mentre la dichiarazione di oggi di Pier Ferdinando Casini è: la decisione di Moody's è di una gravità inaudita, c'è un disegno criminale delle agenzie di rating contro l'Italia e l'Europa, su di noi noi francamente si sbaglia, anzi mi sembra che Radio 24 proprio su questo tema, sul tema dei giudizi parziali da parte delle agenzie di rating, in particolare sul nostro paese, insomma abbia avuto parecchio da dire. Non a caso il professor Maciandaro non è la prima volta che viene ospite ed è stato ospite anche, come dire, sotto il governo Berlusconi a sostenere questi temi. Quindi tenderei a rispedir via questa critica e mi occuperei invece di mercati. Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, abbiamo parlato tanto di questi tagli di giudizio da parte delle agenzie di rating, da parte di Moody's in particolare, questo, ma non solo questo, ha avuto un impatto piuttosto pesante sul mercato italiano. Direi che ce l'ha avuto soprattutto il ritorno alle urne, ormai dato per scontato, della Grecia, visto che durante tutta la mattinata i listini erano stati addirittura in positivo. Certo, c'era qualcuno che si aspettava anche un rimbalzo più corposo, considerato il rovescio di ieri, però tuttavia nel primo pomeriggio, quando è arrivata la notizia che la Grecia tornerà alle urne per l'ennesima volta, i mercati hanno imboccato subito la parabola discendente, un ragionamento che purtroppo vale soprattutto per Milano, che ha chiuso a meno 2,5%, mentre alla fine Parigi a meno 0,6%, e Francoforte a meno 0,8% hanno limitato le perdite. A Milano i peggiori sono i titoli bancari, per esempio l'Emilia Romagna perde l'8,7%, Montepaschi 7,4%, anche Intesa e UbiBanca, che avevano comunque oggi hanno diffuso delle trimestrali in crescita, perdono più di 5 punti percentuali. Sì, Intesa in particolare ha chiuso il primo trimestre con un utile di 804 milioni di euro, la crescita è del 21,6% e ricavi per 4,81 miliardi, un più 14,5%, si diceva molto negativi. La Popolare Emilia Romagna 8,7, il Monte dei Paschi 7,4, Banco Popolare 6,77, Mediolanum giù del 5,6, appunto Unicredit del 5,5, Intesa San Paolo del 5,4, UbiBanca del 5,3, la Popolare di Milano del 4,8. Insomma, cioè, non mi direi che il downgrade di Moody's, il declassamento di Moody's non ha avuto alcun impatto su tutto questo. No, diciamo ce l'ha avuto, ma poi i ribassi veri e propri sono arrivati soprattutto con, come dicevo prima, le nuove elezioni in Grecia, lo spread che si è ampliato a 440 punti base, e come sappiamo quando si amplia lo spread fra BTP e Bund, le banche sono le più esposte a un fenomeno di questo tipo. Poi comunque c'è una questione di esposizione al sistema finanziario ellenico, che vale anche per le banche francesi. Infatti Crédit Agricole, subito dopo la notizia delle elezioni in Grecia, è crollato, è arrivato a perdere più del 5%. Sì, in realtà le francesi e le tedesche, se non sbaglio, sono tra le più esposte, le nostre invece sono esposte all'Italia, ed è per questo che quando si amplia, per così dire, naturalmente quando si amplia lo spread succede di questo. Allora, il miglior titolo, beviamoci su come al solito, Campari più 1,59%. Sì, Campari dimostra questa tenuta significativa in giornate di buriana di borsa. Infatti oggi, come hai detto tu, guadagna l'1,6%, pensate, nell'ultimo mese ha guadagnato il 4%, nell'ultimo anno ha comunque un bilancio positivo, è un titolo che comunque, diciamo, è anticiclico e regge, così come oggi ha retto il lusso. Infatti Ferragamo ha sostanzialmente chiuso invariata, meno 0,4%, così Tod's addirittura positiva, più 0,3%, ma il fatto che il lusso riesca a resistere alla crisi, insomma, non lo scopriamo oggi. Luxottica appunto giù dello 0,22%, ci sono motivi particolari per i quali Parmalat ha guadagnato lo 0,3%? No, non particolare. ST Microelectronics anche positiva dello 0,10%, Pirelli in perfetto pareggio, quindi su 40 titoli del paniere principale solamente 5 si mantengono in positivo. Male oggi anche A2A giù del 5,1%. Qui sono soprattutto realizzi, infatti nelle ultime tre sedute il titolo aveva recuperato più del 20%, anche se bisogna ricordare che prima di questo balzo aveva perso praticamente oltre il 40%. In realtà tra le utility il crollo proprio che viene segnalato tra gli operatori è quello che riguarda Iren, che poi è l'altra multi-utility che condivide con A2A il futuro controllo delle nove centrali di Edipower, che sono state acquisite da assetto di Edison. Iran ieri sera ha diffuso una trimestrale molto deludente, con un debito in forte crescita che sfiora i 3 miliardi, una marginalità che continua a calare, e oggi ha perso addirittura il 12%, è stato sospeso più di 2 ore per eccesso di volatilità. Euro nemmeno te lo chiedo, naturalmente in calo a 1,2764. L'euro paga naturalmente, diciamo, il prezzo. Le indecisioni non solo sui mercati, ma forse sulla tenuta di tutta l'area euro, purtroppo. Grazie a Ceo Condina di Radio Coro Il Sole 24 grazie Ore, a grazie ai colleghi di Radio Coro Il Sole 24 Ore come sempre per gli aggiornamenti di borsa. Allora, ci chiedete, ma la Grecia ce l'ha la liquidità per arrivare alle elezioni? A dire il vero, addirittura un deputato conservatore, se non sbaglio, proprio nei giorni scorsi sosteneva che i soldi per arrivare fino al voto non c'erano. Vedremo da quel lato che cosa succederà, tra l'altro ne parleremo proprio tra poco di Grecia. Vi abbiamo parlato di tutti i bancari possibili e immaginabili, tutti in negativo, forse ci mancava la Popolare di Milano, giù del 4,86%, negativa anche Mediaset del 4,35%, di Orin del 4,30%, Finmeccanica del 4,03%, Mediobanca del 3,92%, Buzzi Unicem del 3,4%, Azimut del 3,3%, giù l'Automatica di 3 punti percentuali, del 2,8%, Enel del 2,6%, Generali del 2,5% in pregilo, di poco più di 2 punti percentuali Atlantia e Fiat, Autogrill giù del 2%, Telecom Italia dell'1,89%, dell'1,7% Snam ed Eni, ed Enel Green Power, giù di 1,5%, Exor, Ansaldo e dell'1,3% Saipem, così come Terna. Negative anche Fiat Industrial dello 0,78%, Prysmian dello 0,62%, Tenaris dello 0,6% e gli altri ve l'abbiamo detti, pochi positivi o non particolarmente negativi, Ferragamo meno 0,41%, Luxottica meno 0,22%, Pirelli in pareggio e appunto ST in guadagno dello 0,10%, Parmalat dello 0,3%, TOZ dello 0,37%, Campari su dell'1,6%. Dunque veniamo alla Grecia. Parlava della Grecia, appunto, della possibilità di un'uscita dall'euro. Toccheremo anche questo tema tra poco. Ci sono dei dati interessanti che sono stati diffusi oggi dal Financial Times, sono dei calcoli effettuati da un'università francese. Le perdite per i due stati principali, ossia la Francia e la Germania, maggiormente esposti, sarebbero di 66,4 miliardi per la Francia e 89,8 per la Germania. Dunque, veniamo alla situazione politica greca, che si è conclusa con un nulla di fatto, il tentativo di creare un nuovo governo e quindi ci si avvia al voto. Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, sembra che quello che possiamo definire il senso di responsabilità, lo chiameremmo, non abbia prevalso. Sì, esattamente. Il presidente Karolos Papoulias, 82 anni, ex partigiano, figura molto stimata da tutti i partiti in Grecia, ha tentato di trovare appunto la via d'uscita con un governo tecnico di unità nazionale, ma non si è raggiunto l'accordo perché Sinistra Democratica, che ha 19 voti per arrivare appunto a superare la maggioranza insieme a Neodemocrazia e al PASOK, ha chiesto che anche Syriza, il partito della coalizione radicale di sinistra che si oppone al piano di salvataggio ma vuole ridiscuterlo pur rimanendo nell'euro, non ha voluto entrare nel governo, e a questo punto il tavolo è saltato. Domani ci sarà un incontro per definire un governo ad interim che porti il paese al voto. Il 17 maggio il presidente aprirà le camere, il 18 maggio verranno chiuse, si voterà probabilmente il 10 o il 17 giugno. A quel punto che cosa succede? Che il voto si trasformerà in un referendum pro o contro l'euro, pro o contro appunto la Grecia che rimane nell'euro e ha questa possibilità di fare. O Vittorio, o pro o contro la Grecia nell'euro a queste condizioni in realtà, perché poi appunto non è tanto la questione della permanenza dell'euro, mi sembra di capire, ma la permanenza a queste condizioni e con questo piano di salvataggio. Sì, esatto, perché il piano di salvataggio, secondo i partiti, chiamiamoli anti-austerity, che sono quelli in maggioranza, ritengono che dopo 5 anni di recessione il trimestre appena uscito dà ancora un meno 6% primo trimestre sul primo trimestre dell'anno precedente, insomma il paese è in una situazione critica, sul 20% di PIL dal 2008 e quindi è in una situazione dove effettivamente non si vede la luce nel tunnel. Abbiamo una disoccupazione che viaggia al 21%, quella giovanile al 50%, quindi è una situazione effettivamente molto molto complicata. Sì, che... anche le banche. Prego, Vittorio, prego. No, dico, anche le banche sono in una situazione difficile perché hanno avuto 70 miliardi di depositi ritirati, perché la gente naturalmente ha cominciato ad avere qualche timore, il finanziamento anche all'economia reale è diminuito in maniera molto consistente, mentre i prestiti, appunto quelli che i bad loans, come vengono chiamati in gergo, quelli che non hanno appunto buona riuscita, sono schizzati. Le banche greche hanno bisogno immediatamente di un'iniezione di 20-25 miliardi di euro per poter ricapitalizzare. E in questo caso chi glieli può dare però? È proprio l'Unione Europea e il Fondo Monetario, perché la tranche dei 30 miliardi che dovrebbe arrivare il 30 giugno, ma che appunto a questo punto è stata congelata, dovrebbe proprio dare il via libera a questa ricapitalizzazione del sistema bancario greco. E brevemente, Vittorio, i segnali, chiamiamoli così, già preelettorali, anche se di qui a giugno, a metà giugno, un po' di tempo ne passa naturalmente, sembrano indicare che la vittoria dovrebbe andare appunto a Tsipras, a Syriza, insomma, a questo partito di sinistra, questo che vuole ridiscutere il piano di salvataggio. Sì, esattamente, i sondaggi danno al 25% questa formazione, perché in realtà è una coalizione di più partiti che ha dal 4,5% è andata a toccare il 17% nelle elezioni di due settimane fa, quindi un exploit imprevisto, imprevedibile, ma che dà proprio il senso di come ci sia una rabbia della gente comune che non riconosce in questa austerity una possibilità di soluzione al problema del paese. Una sensazione da inviato e da persona che ormai conosce il paese da parecchio e che lo frequenta da parecchio e lo ha frequentato parecchio soprattutto nell'ultimo periodo naturalmente. E l'impressione è che l'uscita dall'euro si dia per scontata là? No, io penso di no, cioè il paese sta ponendo delle condizioni perché non ritiene che ci siano state sufficienti, cioè non c'è stato una sufficiente attenzione agli effetti sociali di questa austerity, perché se tu sei in un paese che ha qualche bene che permette di esportare, allora hai uno sfogo, ma se sei un paese che sostanzialmente vive di consumi e di turismo, allora la questione diventa molto più complessa perché non hai nessuna possibilità di trovare una valvola di sfogo attraverso l'export e anche il turismo quest'anno è in calo perché non ha più quei vantaggi, perché ricordiamocelo, in Grecia i prezzi sono comunque europei e quindi non c'è una competizione molto forte. Naturalmente l'anno scorso c'è stato il problema delle cosiddette primavere arabe che ha dirottato verso la Grecia buona parte dei flussi turistici che un tempo andavano nel Nord Africa. Grazie a Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene, per averci aiutato in questo punto. Chi ci vuole leggere un segno divino? Un fulmine ha colpito l'aereo presidenziale che portava François Hollande a Berlino per incontrare Angela Merkel, costringendo l'equipaggio a rientrare a Parigi a cambiare velivolo. Lo hanno riferito fonti dell'Eliseo, già presenti a Berlino, e lo batte l'Ansa in questo momento, ed è esattamente l'incontro tra Merkel e Hollande, che naturalmente sarà ritardato a questo punto, che parliamo adesso. E dunque, nemmeno il tempo di insediarsi all'Eliseo, o meglio, giusto il tempo di insediarsi all'Eliseo, e Hollande è appunto volato a Berlino per incontrare Merkel. Oggi alla cerimonia ufficiale di insediamento il neopresidente ha sottolineato di voler rivolgere ai francesi un messaggio di fiducia, nonostante si trovi ad assumere la presidenza in un momento che, lo sappiamo, è molto difficile. Dunque iniziamo sentendo Hollande. Nous sommes un grand pays qui dans son histoire a toujours su affronter les épreuves et relever les défis qui se présentaient à lui. Siamo un grande paese che nella sua storia ha sempre saputo affrontare le prove e vincere le sfide che si sono presentate. Questo è il mandato che ho ricevuto dal popolo francese: risollevare la Francia con giustizia, aprire una nuova via in Europa, contribuire alla pace nel mondo e alla preservazione del pianeta. Oggi vedo io stesso la difficoltà in cui si trova il nostro paese: un debito massiccio, una crescita debole, una disoccupazione elevata, una minore competitività e un'Europa che ha grande difficoltà ad uscire dalla crisi. Nulla deve essere lasciato al caso. Una volontà comune deve animarci, una direzione chiara deve essere decisa e dobbiamo puntare sui nostri punti di forza, che sono numerosi. La produttività dei nostri lavoratori, l'eccellenza dei nostri ricercatori, l'intraprendenza dei nostri imprenditori, il lavoro dei nostri agricoltori, la qualità dei nostri servizi pubblici, la nostra cultura e la nostra lingua. Senza dimenticare l'intraprendenza dei nostri giovani. La condizione primaria per ritrovare la fiducia è puntare sull'unità nazionale. Le nostre differenze non devono diventare ragione di divisione. Il Paese ha bisogno di pace, di riconciliazione, di unità. Per superare la crisi che la colpisce, l'Europa ha bisogno di un progetto di solidarietà e di crescita. Ai nostri partner proporrò un nuovo patto che unirà la riduzione necessaria del debito pubblico con lo stimolo indispensabile per l'economia. La riduzione necessaria delle dette pubbliche avec l'indispensable stimulation de l'économie. Ebbene, naturalmente scontata una certa dose di retorica nel discorso di Hollande, era anche prevedibile, se vogliamo. Saluto Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Buonasera Marco. Buonasera a voi. E l'altro fronte, Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera. Allora, inizierei con Marco Mussanè per capire, al di là del discorso di insediamento, dove Hollande non ha nascosto i problemi, questo debito pubblico montante e che Bruxelles prevede al 94,5% del PIL per l'anno prossimo, se non erro è già intorno al 90%, al di là del discorso di insediamento c'è questa visita a Berlino per cercare di convincere Merkel a fare cosa esattamente, Marco? Beh, Hollande sicuramente ribadirà alla Merkel la posizione che ha espresso più volte in campagna elettorale e ancora questa mattina nel primo discorso da presidente, il discorso di insediamento all'Eliseo, e cioè come peraltro avete fatto ascoltare il discorso di questa mattina, una revisione del fiscal compact, del patto di disciplina fiscale, in realtà probabilmente un'appendice, un testo aggiuntivo che ponga l'accento sulla crescita, sullo sviluppo, sull'occupazione. I quattro punti fondamentali che Hollande ha ribadito ancora nei giorni scorsi e di cui sicuramente parlerà questa sera, sia pure in ritardo a causa della vicenda dell'euro di cui avete parlato, sono sostanzialmente quattro: il varo dei project bond, e cioè di euro obbligazioni finalizzate al finanziamento di progetti infrastrutturali, lo sblocco dei fondi strutturali europei non utilizzati, maggiori risorse a disposizione della BEI, della Banca Europea per gli Investimenti, e il varo della Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie. Va detto che voi avete ricordato le ultime stime dell'Unione Europea, che peraltro prevedono per la Francia, al di là del debito molto alto, un deficit in realtà nel 2013 molto più alto di quello previsto dal governo, 4,2% rispetto al 3% programmato. Oltre a questo, questa mattina ci sono arrivate le stime del primo trimestre fornite dai diversi istituti di statistica, da cui risulta che la Francia nel primo trimestre, come era peraltro previsto, ha una crescita zero, ha avuto una crescita zero, mentre la Germania ha avuto una crescita dello 0,5, nettamente superiore alle previsioni. Questo vuol dire che la Merkel avrà ovviamente buon gioco nello spiegare, sicuramente in modo molto pacato ed elegante, al neo presidente francese che forse la ricetta migliore per stimolare la crescita è quella tedesca, e cioè quella delle riforme strutturali, in particolare del mercato del lavoro, e non quella della domanda. Allora, ci fermiamo qua, poi ti ritroviamo dopo, abbiamo la viabilità e poi da Alessandro Meri a Francoforte qualcosa ci ha già anticipato Marco Mussanè, qual è la posizione della Germania, perché poi abbiamo anche dichiarazioni di ieri appunto di Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, che dice non possiamo dire che vogliamo cambiare un patto già deciso dopo le elezioni, come si può cambiare un contratto che è stato siglato con 25 firme, e si parla naturalmente del fiscal compact. Allora, Alessandro Merli, appunto una delle due persone chiamate in causa, con che posizione? Mi sembra che la posizione sia abbastanza netta, insomma, del fiscal compact non si tocca nulla. Il fiscal compact è già approvato, anche se non tutti i parlamenti, anzi quasi tutti i parlamenti ancora non l'hanno ratificato, però indubbiamente ci sono delle piccole cose, delle piccole concessioni che la signora Merkel potrà fare a Hollande, e sono quei quattro punti di cui ha parlato Mussanè. In fondo non sono elementi controversi neanche per la Germania, la Tobin Tax è un punto sul quale anche la Merkel è d'accordo, anche se non i suoi alleati di coalizione, i liberali. Questi però sono elementi di contorno, sicuramente non sono questi che faranno ripartire la crescita in Europa. I due punti chiave sui quali Hollande aveva puntato in campagna elettorale, dei quali per il momento non ha riparlato, sarebbero un mandato diverso per la Banca Centrale Europea, che potrebbe favorire anche la crescita oltre che occuparsi della lotta all'inflazione, e il lancio degli eurobond, cioè di debito pubblico comune in Europa. Su questi due argomenti assolutamente la signora Merkel non ci sente, anzi sono proprio tabù sia per lei che per l'opinione pubblica tedesca. Sì, questo è chiarissimo, anche se Alessandro, qualche segnale da parte della Bundesbank sull'allargare le maglie dello stimolo all'economia da parte della Banca Centrale Europea ci sono state, insomma, no? Questa idea per cui l'inflazione tedesca si possa spingere anche un po' più in là di quanto non si pensasse prima, che è stato detto abbastanza chiaramente appunto dalla Bundesbank, potrebbe essere un segnale, no? Ma è un piccolo segnale, di fatto la Bundesbank non auspica di avere un'inflazione più alta in Germania, semplicemente riconosce che se in altri paesi ci sarà una deflazione, sicuramente in Grecia, in Portogallo, probabilmente in Italia e in Spagna, a quel punto l'inflazione tedesca sarà un po' al di sopra della media dell'area dell'euro. Ecco, questo è più che altro un riconoscimento della realtà, il che non significa che la Bundesbank sia disposta a lasciar correre l'inflazione in Germania. I termini della questione li ha precisati abbastanza bene il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble quando ha detto siamo disposti ad accettare un'inflazione fino al 3%, quindi non è che improvvisamente sì, la Germania abbia intenzione di sbraccare. Al momento stanno al 2%, il resto d'Europa sta al 2,6-2,7%, accettano che ci sia in un certo senso senso un'inversione di ruoli dove gli altri avranno un'inflazione più bassa della loro, cioè il contrario di quello che è avvenuto nei primi 10 anni di vita dell'euro. L'altra cosa che ha detto Schäuble, che secondo me è abbastanza importante, è che il governo tutto sommato vede abbastanza con favore questa tornata di rivendicazioni salariali, fra cui la più importante è quella dei metalmeccanici al 6,5% per quest'anno, quindi ben al di là del tasso di inflazione, perché questo vorrebbe dire rilanciare i consumi e in parte contribuire anche a ribilanciare la crescita in Europa. La crescita in Europa. E brevissimamente, se riuscite 20 secondi ciascuno, e partirei da Marco Mussanè, trova cittadinanza in Francia l'ipotesi della Golden Rule lanciata da Mario Monti, ossia la possibilità di detrarre dal calcolo del deficit gli investimenti, ammesso che siano veri investimenti? Monti ha portato l'esempio dell'agenda digitale della banda larga? Beh, a dire la verità, in Francia per il momento questo argomento non è stato per nulla trattato, però non c'è dubbio che da un punto di vista teorico qualunque provvedimento che vada nella direzione di un allentamento dell'austerità non può che essere ben visto da Parigi in questo momento. E invece dal lato di Berlino, Alessandro? Anche qui non se ne è parlato pubblicamente, però sappiamo, diciamo, storicamente, tradizionalmente la Germania è sempre stata contrarissima a queste ipotesi e così lo è anche la Commissione europea. Diciamo che ci sono alcune settimane da qui fino alla fine di giugno, quando sarà il vertice europeo sulla crescita, per la diplomazia italiana per lavorare su questo punto, però mi stupirebbe se Berlino facesse delle grandi concessioni su questo punto. Grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Marco Mussanè, e invece corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, per questi aggiornamenti e naturalmente buon lavoro. Noi adesso ci occupiamo brevemente della vicenda SEA. La notizia ve l'abbiamo data nel corso di Focus Economia, la vicenda lo ricorderete, lo scorso dicembre F2i si è aggiudicata per 385 milioni di euro, un euro in più del minimo, il 29,7% di SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, messo in vendita dal Comune di Milano. Sulla gara però è stata aperta un'indagine, c'è la Guardia di Finanza e poco fa è andata proprio negli uffici del Comune di Milano. Flavia Carletti, Radio Corri, Il Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora, appunto, come dicevi, la Guardia di Finanza è andata nel Comune di Milano per acquisire dei documenti presso la Direzione Generale relativi al contratto con cui è stata ceduta questa quota di SEA al fondo F2I e contemporaneamente è stata mandata anche a fare delle perquisizioni presso la sede del fondo guidato da Gamberale, e sono stati perquisiti gli uffici sia di Vito Gamberale che di Mauro Maglia, che è un senior partner della società. Questo è il quadro fino adesso. Altre notizie, in particolare dettagli ulteriori, Flavia? Ma, appunto, Gamberale e Maglia sono indagati per turbativa d'asta e si fa riferimento a una telefonata intercorsa tra i due del 14 luglio dello scorso anno, che era stata intercettata durante un'inchiesta della Procura di Firenze, poi trasmessa a Milano, e nel decreto di perquisizione si scrive che questa telefonata si rileva l'esistenza di rapporti con soggetti coinvolti nella cessione delle azioni ancora prima che il bando di gara fosse reso pubblico. Infatti la telefonata è di luglio, il bando è stato pubblicato il 17 novembre e l'aggiudicazione della gara poi del dicembre successivo, e dalle dichiarazioni ufficiali fatte dal comune si inizia a parlare di una possibile vendita attraverso un bando solo dopo l'estate, quindi da qui nasce il sospetto degli inquirenti che hanno avviato l'inchiesta. Grazie a Flavia Carletti di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Noi, prima di chiudere, abbiamo qualche minuto e ci occupiamo di edilizia. Oggi è stato il cosiddetto D-Day delle costruzioni, mobilitazione per il recupero dei crediti nei confronti dello Stato, organizzato dall'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che riunisce 20.000 imprese del settore, un comparto che conta 300.000 imprese, 3 milioni di lavoratori, rappresenta l'11% del PIL. Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, voi avete detto che avete intenzione di intentare una serie di azioni legali contro lo Stato che non paga e porta le aziende al fallimento. Ci sono gli estremi? Eh, siamo,